Rock FM. Rock FM. Milano. Italy. Della giornata con lo spazio dedicato ai concerti, partiamo con Napalm Death, Suffocation e Warbringer. Saranno dal vivo il 23 di maggio al New Age Club di Roncade Treviso, il 24 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. Tributo ai Rush effettuato dagli XYZ sabato 24 maggio al Fronte del Porto, in quel di Genova. Festa della musica, nel giorno 25 di maggio, nel comune di San Donato Milanese, suonerà dal vivo, 25 maggio, la Travis Blues Band. I Blastema saranno il sabato 24 maggio alle Scimmie di Milano. Rock FM All Stars Band, sabato 24 maggio, all'Area Jens di Pontedera, provincia di Pisa. Continuiamo con gli Interpol, che saranno dal vivo martedì 15 luglio a Ferrara, in piazza Castello. I Donkeys Forever saranno invece dal vivo il 30 di maggio al Dixieland di Milano. Ancora la Travis Blues Band, 31 di maggio a Paderno Dugnano, all'Anfiteatro Parco Lago Nord. 23 di maggio al Jamba Live di Rapallo, provincia di Genova, dal vivo gli Oboe, Ricochet e a seguire DJ Set col nostro Edo Rossi. Venerdì 23 maggio, Pala Sharp di Milano, ultima data della prima parte del tour degli After Hours.

reason. With other people like us, we gotta work. And it's even some people, mothers, they'll tell you that life is just made out of dirt. And when they live, they really faint. Oh, the feelings always with their eyes. And children are the only ones who blush. And life is just been dying. use it till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, loving and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I'll tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, some love. Alice Cooper, mancano 10 minuti, qualcosa meno, alle ore 11. Abbiamo ritrovato appunto anche Alice Cooper in questo tris con Eric Clapton in precedenza. Saluto Frinz 78 da Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna. Ancora Claudio da Milano e Dani e Massi in quelle di Firenze. Andiamo a parlare invece del 20 di maggio 1967, quando prodotto da Chas Chandler, dopo una lunga serie di pubblicazioni a 45 giri, esce il primo album del Jimi Hendrix Experience, questo terzetto, questo trio incredibile. Chitarrista mancino di Seattle insieme a Mick Mitchell e Noel Reading traccia una delle pagine fondamentali, diciamo, nella cultura del rock con l'album Are You Experienced? E ci sono vari brani importanti, Foxy Lady, Red House, Manic Depression. Quell'album si piazzò al numero 2 nelle classifiche inglesi, dietro soltanto al Sgt. Pepper's dei Beatles. Depression is searching my soul. Il grande trio di Jimi Hendrix Experience qui con Manic Depression ad un passo dalle ore 11. È tempo di un altro regalo, allora abbiamo regalato prima biglietti per il concerto di Italia e lo faremo anche nell'ultima ora. Regaliamo il videogame della settimana presentato ieri insieme al collegamento con Fabio dagli studi Halifax per Xbox 360, questa è la console, videogame appena pubblicato, d'azione, superazione, si chiama Viking, quindi per vincerlo basta inviare il vostro nome e cognome e la città da dove lo inviate al nostro SMS 335 100 7777.